poi ce ne intendiamo di Conti, perché abbiamo Paolo Conti questa mattina, direttore generale CAF Acli, battutona dottor Conti, per renderle più gradevole. Certo. Adesso noi non abbiamo neanche un facsimile di 7:30 precompilato, ma dovrebbero essere tutti uguali. La porto sempre in tasca. No. Il mio primo abito di carnevale da damina contemplava in primo luogo che mi disegnassi un neo sulla faccia. Dopo se no, si pensava al vestito. No, che damina è. Certo. Le lampade non preparano per la spiaggia in quanto non fanno da fotoprotezione. Ringraziamo Simone, ma già Deborah lo sapeva, Simone, vero? Sì, e certo, era già preparata. Due anni di cuore e denari qua, altrimenti che cosa sono serviti? Io so tutto ormai sul 7:30. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E se una femmina si chiamerà Futura. Oggi parliamo del bonus bebè, lo aspettavamo da gennaio e da ieri finalmente è possibile inoltrare all'INPS le domande per questo contributo di 80 euro al mese per i nuovi nati. Allora noi abbiamo approfittato dell'occasione per dedicare una puntata e parlare dei primi anni di vita dei nostri bambini, dagli 0 ai 2 anni, il periodo delle scoperte, dei progressi, dei traguardi, delle prime volte, la prima volta che ci hanno sorriso, la prima volta che ci hanno chiamato mamma o papà, la prima volta che hanno dormito una notte tutta intera era nel loro lettino, la prima volta che hanno fatto pipì nel vasino o ancora la prima volta che si sono messi in piedi e hanno iniziato a camminare un po' barcollanti o a gattonare. Qual è la prima volta che portate nel cuore e quale prima volta state aspettando? 800 24 0024, un numero verde per i vostri racconti, ma anche per le vostre domande, perché genitori non si nasce, si diventa, giorno dopo giorno, cresciamo insieme ai nostri bambini e diventiamo grandi con loro. Allora papà, mamma, zii, nonni all'ascolto, chiamateci e se i vostri figli sono cresciuti chiamateci per darci il vostro consiglio. E sicuramente sono tanti i consigli che una giovane mamma può cercare, sono tanti gli strumenti che può trovare per superare le piccole e grandi sfide di questo periodo così importante. Qualche aiuto può arrivare, non c'è dubbio, anche dal punto di vista dei denari. Ecco perché, come anticipava Nicoletta, nella seconda parte della trasmissione di oggi ci dedichiamo proprio al bonus bebè che permette di ricevere 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato fra il 1 gennaio di quest'anno e il 31 dicembre del 2017. Naturalmente in presenza di determinati requisiti. Questo bonus era confermato da tempo, ne parliamo da gennaio, ma aspettavamo ancora le disposizioni operative che sono arrivate proprio alla fine della settimana scorsa da parte dell'INPS. Si può inoltrare la domanda sempre all'INPS proprio a partire da ieri. Noi naturalmente vi spiegheremo tutta la procedura a partire dalle 11:45. Quando i bambini fanno c'è un topolino. Primi passi, prime parole, prime esperienze, potremmo intitolare così la puntata di oggi, in cui con l'aiuto dei nostri esperti seguiremo le tappe di sviluppo dei bambini, anni di grandi trasformazioni sul piano fisico, psichico, motorio, relazionale. Secondo numerose ricerche tutto si gioca nei primi 1000 giorni di vita, dal concepimento fino allo spegnimento delle candeline del secondo compleanno, 3 anni scarsi, ma di cruciale importanza in cui si formano e si completano le strutture di base, le fondamenta per così dire, sulle quali si costruirà il futuro e la salute del bambino. Ne parliamo oggi insieme con Tata Lucia, che è tornata a trovarci. Buongiorno, wow, siamo molto contente. Anch'io, certo. Anche Deborah. Sì, è vero, perché lo dichiaro senza alcun pudore. È arrivata Tata Lucia e ha portato con sé il suo ultimo libro, Leggi con me. Parleremo naturalmente anche di lettura, perché anche questo, no? È un modo per stimolare i nostri bambini. Infatti da 1 a 15 anni educare con fiabe, storie e libri, Rizzoli Editore. Voilà. Grazie. Sei pronta allora ad accompagnarci con i tuoi consigli? Ci vuoi anticipare, certo, un po' il tuo tata pensiero, Lucia? Il mio tata pensiero, avendo 3 figli nati tutti tra dicembre e gennaio e quindi avrebbero dovuto fare le stesse cose più o meno nello stesso periodo dell'anno. Invece assolutamente sono stati diversissimi nella loro maturazione. La maggiore, che è la tipa perfetta, quando doveva fare un certo gradino in cortile ne prendeva assolutamente le misure con le gambine prima di scendere. Il secondo, il terribile, gradino non lo vedeva neanche, saltava già al di là allo stesso tempo. La terza era un po' più equilibrata, mi chiedeva aiuto, dava la mano per scendere sto benedetto gradino. Però per esempio la parola, invece, mio figlio, il terribile, non ha parlato se non tardissimo e in maniera confusa, mentre si occupava fisicamente di demolire la casa. Quindi ogni bambino è diverso dall'altro, non preparatevi un teatrino di quello che deve essere. 800 24 00 24, raccontateci quindi di voi e dei vostri bambini, dei vostri nipoti, di come vi raccontano i vostri genitori di quando eravate piccoli. Aspettiamo le vostre telefonate e intanto vogliamo presentare il nostro prossimo ospite, che è il dottor Francesco Scimone, neonatologo alla Macedonio Melloni, Fate Bene Fratelli di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Dottore, chi ben comincia è a metà dell'opera, si potrebbero riassumere così i risultati di tante ricerche che sottolineano il ruolo cruciale dei primi 1000 giorni di vita per la salute del bambino. Ma cosa rende questi 1000 giorni così importanti? Che cosa succede? Succede che nei primi 3 anni di vita, 1000 giorni circa, 2-3 anni, si ha il principale adattamento alla vita esterna, al mondo esterno. Il bambino, quando nasce, appena nato, porta con sé l'eredità dei genitori, quello che è del temperamento della mamma, del papà e anche un po' dei nonni e della generazione, che si sintetizza nel temperamento del bambino. Mm-hmm. Temperamenti sono un po' l'aspetto biopsicologico del carattere, un po' del modo di fare, come fronteggiare la realtà, il mondo esterno. Quindi c'è il bambino che è appena nato strilla fortissimo e pedala, il bambino invece che si guarda in giro e non neanche piange, per dire. Quindi lei, dottore, con la sua esperienza, quando li vede così super piccoli, appena nati, basta un'occhiata per capire che se saranno un terribile come il figlio della tata oppure un più ragioniere? No, fino a quel punto magari, proprio perché il mio appena nati è appena nato, non è un mese, è un secondo appena nato, e quindi è un po' poco, è troppo presto. Però, ma diciamo nella prima ora e il primo modo di piangere dà un'idea indicativa se è un bambino, diciamo, vivace, aggressivo, collerico, come si può dire, o un bambino più riflessivo, diciamo due grandi capitoli. Sì. Man mano che passano i giorni e le settimane, il modo che ha di succhiare al seno, il modo che ha di essere calmato, come si lascia calmare, come reagisce quando lo disturbiamo, lì vengono fuori tanti più elementi. Che idea vi siete fatti del vostro piccolino? 800 24 00 24, Deborah, i tuoi 3 nipoti tutti diversi? Tutti diversi assolutamente, un grande, adesso qua mia sorella mi sparerà che racconto queste cose, molto, molto sensibile, quindi il maschio, il più grande, una seconda che già vedo ha una personalità incredibile, uno spirito di trattativa già con i genitori pazzesco, già negozia, io faccio questo se tu fai questo, me l'ho raccontato proprio domenica mia sorella, per cui veramente manifesta, la piccolina è ancora piccolina, molto dolce, ce la godiamo ancora così un anno. E andiamo a Mari, che ci chiama da Bassano del Grappa. Buongiorno, inauguriamo così lo spazio delle telefonate nella puntata di Cuore Denari, tutta dedicata ai bambini, dal bonus bebè al carattere dei nostri bambini, alle inclinazioni. Buongiorno Mari. Buongiorno, buongiorno. Niente, io chiamavo soltanto per sentivo che parlavate di bambini. Io ho avuto la fortuna / sfortuna di avere 2 gemelline, sfortuna nel senso che sono nate molto premature, quindi tutto quello che ci va dietro con i bambini prematuri. E volevo solo raccontare così come sono stati i primi mesi più o meno, a parte la difficoltà di averne 2 in contemporanea, perché io mi sono sempre sentita una mamma senza un braccio, e che piangono insieme, che tiri su, tutto questi cambi, chi cambi prima e chi cambi dopo. dopo. Ciò che volevo sottolineare, la fatica sicuramente, adesso le bambine compieranno 7 anni ad agosto, quindi diciamo che il più è passato. È andato? Sì, ci sono altri problemi naturalmente, però la gioia di vederle crescere insieme, perché io, ripeto, a parte i primi 2 anni che erano, ripeto, la prematurità, quindi ci siamo stati molto dietro, io anche con il mio lavoro avevo un occhio, diciamo, tra virgolette clinico, sono un'insegnante. E quindi sa continuare a stimolarle, però vederle crescere insieme, giocare insieme. Il ricordo che ho di più vivido di questi 7 anni è stato quando si sono viste, sì, nel senso che loro sono sempre state insieme, però si sono guardate e si sono prese per mano. Avevano, io penso, un 20 giorni, eravamo ancora in ospedale, erano nella culletta termica insieme e si sono prese per mano. È il ricordo più vivido che ho di questa mia esperienza, di questa mia maternità. E sono ricordi che si portano nel cuore e non si dimenticano mai. E oggi vogliamo proprio raccoglierli. Mari, grazie per averci chiamato e averci regalato questa immagine. Ma delle tue grandi non ci racconti niente? Allora, delle mie grandi io ti dico, io sono stata una mamma super, non so se apprensiva, comunque con la prima devo dire che ho sbagliato tutto, non ha dormito per 2 anni e la passeggiavo, ero già incinta della seconda, cantando Bella Ciao. Bello. Se mi fermavo lei dava il tempo e quindi con la piccola sono stata fortunata perché mi sorrideva tutte le volte che la mettevo giù, forse aveva capito che doveva prendere un po' le distanze da questa mamma per dire ciao, e poi quindi le notti sono andate bene e me le sono godute, mi sono divertita molto. Ma devo dire, in ogni periodo di vita delle bambine, sai che si dice figli piccoli, problemi, che belli piccoli. Quando sono grandi, io me le godo ancora adesso, trovo sì. E poi mi ricordo tutte le, avevo preso tutte le misure quando avevano le manine, certo, che erano più piccole di un mignolo, certo. Oh, insomma, ho le foto. Guarda, un mio desiderio grande sarebbe tornare per un'ora proprio averle indietro piccole. E averle piccole, sì, sì. Ancora per un'ora, per sentire quel profumino che hanno sul collo. Dottore, lei non può annusarli i bambini quando o di nascosto li annusa un po'? Quali bambini? Quelli piccoli che maneggia quando... Sì. Beh, l'odore hanno che hanno si sente, non c'è bisogno di andarli a annusare. Senta dottore, a proposito di bambini piccoli, le mamme hanno sempre il timore che i bambini siano, giustamente, no? Sono così, sembrano molto delicati e fragili, da maneggiare con cura. In realtà, come spesso si dice, i bambini sono resistenti e sopravvivono nonostante le mamme, io ne sono e i pediatri. Questo sicuramente. Possiamo mandare un messaggio di rassicurazione alle mamme in ascolto? Sicuramente i bambini hanno una forza enorme, un'energia vitale che è difficile contrastare. Poi, che se capita che si indeboliscono per questioni di salute, sta a noi riaiutarli. Però la spinta vitale, se no non saremmo qua. Allora, prima di andare ai messaggi dei nostri ascoltatori, voglio ricordare che proprio in questi giorni si svolge la campagna a sostegno dell'allattamento al seno, no? Pediatri, nutrizionisti sono tutti d'accordo che il latte materno rappresenti il miglior alimento per i neonati. Poi madre natura fa sempre le cose per bene, no? E quindi è pronto, fresco, sempre caldo, la temperatura giusta, pronto al bisogno e anche sempre pronto alle necessità di crescita del bambino. La sua composizione cambia, vero dottor Cimone? La composizione cambia nella giornata, cambia nei giorni, uno via l'altro, cambia nei mesi e si adatta anche alle necessità di salute. Gli anticorpi che ci sono nel latte sono protettivi per il bambino, quindi l'allattamento al seno è una grossissima protezione per la salute, fino, si può dire, anche a 2 anni. Ovviamente arrivate a un certo periodo, dai 6 mesi all'anno, a seconda delle correnti per cui si decide di svezzare, si introducono anche altri alimenti e possono esserci vari parametri per decidere o lo schema temporale per cui a 6 mesi si fa lo svezzamento, insieme a mantenere comunque almeno metà o più della metà di latte materno nell'insieme della giornata, per poi arrivare ad eguagliarlo. Solitamente almeno a 1 anno il bambino mangia metà latte, metà pappe e altre cose. Tata, Tu sì. Che i genitori li incontri con i genitori, a volte ti scontri, no? Noi certo. Stiamo analizzando questi primi 1000 giorni di vita, certo. Arriviamo fino ai 2 anni, ma naturalmente 2 anni e mezzo, sì, 3. Sì, sì. Quali sono secondo te i passaggi più impegnativi, quelli che mettono in difficoltà le mamme e papà in questi giorni, il momento della pappa, la nanna, il confronto con gli altri bambini, fatto che cammini prima o dopo? Certo, io direi che proprio l'incongruenza è nel pensiero di molti genitori che non si rendono conto che il bambino in effetti è, ha tantissime potenzialità, cresce, non è così appunto fragile, debole, è pronto a imparare, è un curioso, è una meraviglia, quindi bisogna fargli fare determinate esperienze nel camminare, per esempio metterlo in un posto sicuro ma lasciarlo fare da solo, che gattoni, che faccia, che tocchi in un posto sicuro. Col cibo, anche lì, quando comincia a mangiare, che si metta le cose in bocca, fa niente se all'inizio se le mette in testa invece che in bocca. Sono esperienze che deve fare, non è così fragile. Poi per contro, appena appena così, gli danno in mano degli strumenti che invece non gli competono. Gente che gli dà in mano il cellulare per sentire la musichetta invece di dargli il giochino, così lo piazzano davanti alla televisione. Strumenti che non competono a quell'età. Mentre invece le esperienze relative alla loro età, quando cominciano a muoversi, per esempio metterli in un posto protetto, su un bel tappeto dove non possono farsi male, ma che si possano muovere, in modo che sperimentino proprio cosa vuol dire muovere un braccino, muovere le cose, invece tenerli sempre costretti, questo anche tenerli sempre in braccio, molta gente adesso li tiene sempre costantemente in braccio. Dottor Scimone. Il primo anno è molto importante per questo motivo, è come se nel DNA del bambino sì. ci scatta un dispositivo con un obiettivo preciso, devo mettermi in piedi e camminare. Questo sistema che è proprio la spinta che incoraggia il bambino a muoversi si sviluppa a partire dal 4º-6º mese, per cui quello è il momento buono per dare le opportunità. Un bambino sa già quel che deve fare. C'è un proverbio che dice: non si insegna ai gatti a arrampicarsi. È uguale, vale anche per il bambino. È la maggior ragione per un bambino che è più evoluto del gatto. Quindi non bisogna insegnare a camminare. No. Si mette il bambino nella condizione di usare quello che già è per cui già è predisposto. Tenendo conto che il cervello non conosce ancora la macchinetta che ha a disposizione, perché non è già a posto così, non è maturo. Il bambino nasce prima, anche a termine, è comunque impreparato, mentre il cavallo appena partorito corre, sì. il neonato dell'uomo, il figlio dell'uomo, nasce già prematuro quando è a termine, perché deve metterci i suoi bei 3 anni per fare quello che il cavallo fa quando nasce e corre. Quindi tutti i movimenti automatici che fa il corpo del bambino, che pedala, si muove, rotola, striscia, va a gattoni, serve al cervello per capire bene come funzionano e conoscere i muscoli che ha. Quando un muscolo si muove, il cervello lo vede, lo percepisce, idealmente gli manda i suoi nervi e poi lo governa e lo controlla. Tutta questa operazione di controllo motorio implica il primo anno. Perché i primi 4-6 mesi il cervello deve inibire tutto sto automatismo disordinato che non funziona per la funzione antigravitaria, cioè per stare in piedi. E da 6 ai 12 mesi si mette in piedi e cammina, ma non andiamo noi a insegnarglielo, dobbiamo dargli lo spazio e gli appoggi giusti. E metterlo, spazio e appoggi giusti, certo. Magari eliminando tutti quei sottoletti. Certo, allora, gli spigoli. Andiamo da Lucia, che ci chiama da Firenze, Deborah. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Lucia, benvenuta. Grazie. Io sono Lucia, ho 46 anni e sono mamma di Maria Elena, che è una bambina con trisomia 21, ora Maria Elena ha 21 mesi. Sì. E avete fatto la domanda all'inizio, anche cosa aspettate? Sì. Io aspetto che cammini, però voglio dare anche un messaggio molto positivo, perché questi 21 mesi, dopo 40 giorni di pianti ininterrotto, sono stati non belli, meravigliosi. Maria Elena a 3 mesi dormiva nel suo lettino, a 9 mesi ha chiamato mamma e babba, babbo la toscana, e poi insomma, ora se la, a 13 mesi è andata all'asilo nido e ora aspetto quest'altra tappa, che a 21 mesi tutti i bambini, tutti i suoi compagni dell'asilo nido camminano e lei no, sì, ma ce la mette tutta, ecco, quindi diciamo che sei una mamma anche in attesa, in ma attesa, non angosciata. No, no, no, e noi aspettiamo con lei. Dottor Scimone, questa è una bella storia di Lucia, ha mandato anche un bel messaggio e noi la ringraziamo, ha raccontato un po' le tappe, quindi è in attesa di questi primi passi. Sì, beh, il 90% dei bambini cammina in un range di spazio, di tempo, tra i 12 e i 18 mesi, quasi tutti, o prima o dopo. Che se c'è qualche difficoltà dal punto di vista neuromotorio, vuoi che sia a causa, appunto, può essere la trisomia 21, può dare una riduzione del tono muscolare. Il tono muscolare è la prontezza di movimento che il muscolo ha, perché è già un po' contratto prima di muoversi, sì. Quindi se sono tutti già ben organizzati e ben contratti, il movimento avviene organizzato e più precocemente. Anche perché Maria Elena, come ha raccontato Lucia, la sua mamma, ha fatto tutto proprio, ha seguito le tappe di come quindi questi tutti piccoli i suoi slittamenti, bambini, anche che possono esserci, se sono sotto controllo, perché si vede che il trend è regolare, ci si aspetta che a un certo punto il camminare arriverà, anche se più un po' più tardi. Allora, noi, Deborah, cammina, è arrivato cammina, l'ora. Esatto, è qua di raccontare un po' di numeri. Andiamo. Cuore e denari. Abbiamo festeggiate proprio domenica scorsa, fresca fresca la festa, le nostre mamme, un pensiero in particolare noi oggi lo stiamo rivolgendo alle neomamme. La pagina di Denari, ve lo anticipo, interesserà in particolar modo quelle famiglie in cui c'è una neomamma e chiaramente anche un neopapà. Dal 1 gennaio 2015, ripeto questa data, segnatevela e poi scoprirete perché. Il tema che trattiamo fra un po' è il bonus bebè, lo abbiamo preannunciato per tante settimane, arriva finalmente 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio di quest'anno al 31 dicembre 2017. Noi vi racconteremo e vi spiegheremo quali sono i requisiti e come presentare la domanda all'INPS. Intanto fateci le vostre domande all'800 24 00 24. Fiabe, raccontate ai vostri bambini, 800 24 00 24, raccontare le fiabe, anche quando i bambini sono molto piccoli, certo, non capiscono ancora le parole, è un modo molto, uno stimolo adeguato, molto utile, non solo aiuta anche poi la capacità linguistica, ma è un integratore, un acceleratore anche dello sviluppo delle funzioni cognitive, quindi raccontateci, se raccontate le favole, se ve le inventate, se il vostro bambino poi manifesta una preferenza per alcuni tipi di storie e insomma che cosa fate anche prima del momento bello che è quello della nanna e se la nanna vi dà problemi. Ma prima vogliamo andare a sentire i nostri ascoltatori che ci stanno raccontando. Accettiamo naturalmente anche consigli da chi ha già superato i primi 1000 giorni e anche ricordi. Roberto, buongiorno. Pronto sì. Roberto, buongiorno. Sì, sono io, buongiorno. Sì, mi dica. In riferimento a quello che ha detto il medico all'inizio, che nei primi anni di vita non si riescono, nei primi anni di vita non si riesce a capire bene le caratteristiche del bambino. No, in realtà ha detto esattamente il contrario. Roberto, sì, no, allora lui, il dottore ha detto, io li vedo il primo istante di vita. La prima ora, cioè fa il neonatologo, quindi la mamma partorisce, il neonatologo è lì, vede il bambino e io per battuta gli ho detto al primo occhio, lui dice il primo secondo no, ma sicuramente nei primi giorni si riesce già a capire da come il bambino si attacca al seno, come strilla, come si muove, se sgambetta, che cosa sarà poi. No, il suo carattere, il suo modo anche di approcciarsi alla vita, le difficoltà, questo aveva detto, ho riassunto bene, al temperamento. Roberto, invece lei che cosa vuol dire? Allora, volevo dire su questa mia esperienza, io sono il padre di due gemelli, sì. Francesco e Tommaso, In realtà, fin da quando erano nella pancia, entrambi manifestavano i caratteristiche caratteriali, appunto, che hanno avuto anche successivamente al parto. Quindi io, Francesco, è sempre stato iperattivo nella pancia della mamma e lo è tuttora. Sì. Tommaso invece è un bambino, più tranquillo. È stato un bambino tranquillo e tuttora ha manifestato questa indole, quindi a distanza di una nascita di un minuto da uno dall'altro. Lei li aveva già inquadrati, meno male, meno male che ce n'era uno un po' più tranquillino. Sicuramente la mamma queste cose le capisce prima del neonatologo. Sì. Quindi il neonatologo arriva e vede delle cose, non ha tutte queste percezioni che ha una mamma. La mamma sa già tutto dall'inizio, senza dubbio. E Roberto ce lo conferma. Roberto, un bacio ai suoi due gemelli. Francesco e Tommaso, andiamo ad Elena da Brescia che salutiamo. Elena, benvenuta. E arriva, sta arrivando il terzo, è arrivato? È arrivato a circa 45 giorni il terzo figlio. Ah. Faccio i complimenti per la trasmissione che ascolto sempre. Grazie. Soprattutto adesso che ho qualche minuto in più. Io sono mamma, sono medico e vabbè, sono molto felice per questi tre bambini e mi permettevo, uno forse lo sentirete già in diretta, mi permettevo, ecco, tante cose potrei dire, mi concentro sui giorni passati in ospedale sull'allattamento, perché vorrei davvero fare un appello ai pediatri che hanno in quei giorni come pazienti i piccolini, ma in realtà il piccolino non può stare bene se la mamma non viene un po' coccolata, perché è in un momento veramente particolarissimo della propria vita in cui una parola detta purtroppo in un modo che è comprensibile. Io da medico capisco che non tutti i giorni sono uguali, non tutte le volte si possono trattare le persone nello stesso modo, però io vi faccio un esempio. Con il mio secondo non c'era ancora il rooming e non riuscivo, quando me lo portavano dormivo, non riuscivo ad attaccarlo. Per curiosità sono passata dal nido e mi sono accorta che gli stavano dando acqua e zucchero, quindi questa è una cosa che veramente va gestita con le mamme e non si può dichiarare di favorire l'allattamento e poi avere questi atteggiamenti che sfavoriscono la montata latte. Certo, perché con poi il bambino non si attacca. Quindi Elena, posso rassicurare, sì, che adesso è in corso tutta un'operazione a livello nazionale, nel nostro ospedale è già cominciata da un po', che si chiama Ospedale Amico del Bambino, che comprende tante funzioni, insomma, ma in particolare proprio quella di promuovere l'allattamento al seno con rooming in. Il bambino sta con la mamma l'80-90% del tempo, ci sono tutte queste attenzioni che una volta è vero non c'erano, di non dare altre sostanze se non il latte, di attaccarlo al seno a sua richiesta anche intensiva nei primi giorni soprattutto. E quindi la svolta nel mondo della pediatria e della neonatologia su questo fronte mamma-bambino, di favorire come se il bambino fosse nato a casa propria, sì, è una cosa che è già in corso. Poi ci vorrà un po' il tempo perché si diffonda dappertutto. Tata, vorrei tornare al tuo libro, perché sì, parli il titolo è Leggi con me, sì, e quindi è un invito per i genitori a leggere, certo, insieme, o quando i bambini sono piccoli, a leggere per i loro bambini. Certo. Quali sono in questi primi 1000 giorni, dato che abbiamo detto che anche quando i bambini sono piccolissimi, sì, sì, vanno adeguatamente che stimolati? Così dico, chiediamo anche ai nostri ascoltatori di raccontarci le favole, certo, quali favole raccontano. Addirittura gli scienziati hanno visto, magari anche i neonatologi eccetera, che la mamma che racconta o canta delle filastrocche prima della nascita, quando il bambino è nato, in un certo senso riconosce, sì, quei suoni. È stata una bella ricerca del San, sì, Raffaele. Sì, riconosce quei suoni, quindi va sempre molto usata questo strumento della voce. Coi bambini molto piccoli sono bellissime appunto le filastrocche, le cose in rima, perché il bambino segue determinati, quindi è importantissimo. Appena cresce un pochino ed è in grado magari anche di stare più attento alla figura, così bastano anche libretti con una figura per pagina, basta parlare, che è diverso però dalla fiaba raccontata per addormentarsi, eh? Sono due mondi diversi. Due attività diverse. La fiaba per addormentarsi, diciamo, non ha quell'importanza che ha invece proprio il leggere col bambino, anche piccolino, anche 2 anni eccetera, seduti, guardando la figura, girando la pagina, messaggio. Noi messaggio. Stiamo quasi finendo lo spazio per i primi passi, i primi parole. Il messaggio di questo libro è: più libri, meno tablet. Assolutamente sì. E meno smartphone. Quando preparate la cameretta con la cesta del bambino, fate uno scaffalino con dei libri. Dottor Scimone, un messaggio per le mamme, il papà per carità, all'ascolto, nonni, zii, zie, ma un messaggio a conclusione di questa puntata, che riprenderemo naturalmente per confrontarci un po'. Il consiglio che mi sento di dare è che la cameretta di un bambino piccolo non deve avere nessun sistema informatico, che non ha senso. Bravo. A quest'età, fino anche a 7 anni, la personalità del bambino si forma in questi primi 7 anni di vita, guardando i genitori, incamerando informazioni dal mondo esterno. Soprattutto se un genitore vuole educare il proprio figlio, bisogna che il figlio lo guardi. Il bambino si sente quello che vede, che percepisce. Se in mezzo c'è un videogioco, c'è un tablet anziché una persona, sarà con una testa un pochino troppo influenzata artificialmente. Questa è una cosa. L'altra cosa, bisogna ricordare che i bambini dalla 20ª settimana di gravidanza sentono e cominciano a sentire la pancia della mamma, il cuore della mamma, e la voce della mamma e la voce del papà un po' distante, perché c'è l'acqua che lo separa, i fratellini, c'è tutto l'ambiente, con l'udito viene percepito. Sì. E soprattutto la musica viene percepita, e la musicalità delle parole. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto prima la collega, sì. Il cantare le filastrocche è molto importante. Un bambino piccolo, parlare una storiella non la comprenderà, ne comprenderà la musicalità. E quindi io incoraggio le mamme a cantare e a raccontare, inventandosele le storie, anche leggerle va bene, ma tante volte cercando di trovare la propria storia, la propria fiaba, la propria storiellina per dormire, è molto più comunicativo e si crea quel legame affettivo, musicale, che è molto importante. Grazie a Tata Lucia, ricordiamo il titolo del suo libro, Leggi con me, Rizzoli Editore. Grazie al dottor Scimone, neonatologo, alla Macedonio Mellone, Fate Bene Fratelli di Milano, che invitiamo subito a ritornare immediatamente, al più presto. Direi, esatto. Grazie. Grazie molte. Non ci sarà un altro bonus bebè, magari, ma ci inventiamo certamente un bel legame anche con il tema che devo affrontare fra poco, che è di denari. Traffico, a tra pochissimo. Cuore e denari. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Allora, quanti pensieri per i nostri bebè? Io parlo senza titoli esattamente, però insomma sono molto partecipe di queste le chiacchierate, un ruolo fondamentale. Speriamo e lo Nicoletta. Sai anche tu. Sono sempre pensieri molto belli, sono pensieri belli ma qualche volta conditi anche da qualche piccola preoccupazione a cui un po' di denaro può contribuire a mettere un piccolo freno. Naturalmente il caso del bonus bebè. Ne stiamo parlando da gennaio, è stato per 4 mesi sulla rampa di lancio di lei, che se l'è presa comoda a sufficienza. Oggi parliamo appunto del bonus bebè, perché finalmente il meccanismo per fare domanda è avviato. Proprio da ieri è possibile presentare le domande per poter fruire di questo contributo da 80 euro al mese. L'INPS nei giorni scorsi ha emanato una circolare, per cui per tutti i curiosi sappiate che è la numero 93, e ha fornito con questo documento tutte le istruzioni operative e tecniche per la disciplina di dettaglio di questa prestazione, che poi in Gazzetta Ufficiale è datata 11 aprile il provvedimento. Noi siamo pronti a fare da cassa di risonanza a questa iniziativa per fornire tutte le istruzioni necessarie alle famiglie a chiedere ed ottenere questa prestazione di sostegno al reddito. Vedo già che c'è chi si lamenta: non è giusto che mio figlio è nato a dicembre del 2014, a me non spetti. Ma da qualche parte bisogna iniziare. Se si cominciava a dicembre si lamentavano quelli di novembre, io mi rendo conto, ma insomma la polemica comprensibile che arriva sempre. Di fatto si parte, per chi ne vuole fare richiesta, per i nati dal 1 gennaio di quest'anno, ma ci spiegano tutto. Intanto, collega del Sole 24 Ore, Matteo Prioschi, abbiamo sistemato microfono e cuffie. Tutto a posto, ci buongiorno. Ci siamo, collegato da Houston, eccoci qua, che se in realtà è qui vicino. Ringrazio, saluto, ritorna con noi il dottor Luca Sabatini, direttore centrale della Direzione Prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS. Dottor Sabatini, ben ritrovato, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, oltre ad invitarvi a fare ai nostri esperti tutte le domande in merito, come avrete notato c'è un'informazione che ho ricordato molto velocemente, ovvero qual è la platea dei bebè beneficiari di questo bonus. Non l'ho ancora detto, ma l'ho detto nei precedenti lanci, in apertura, sono stata proprio molto chiara sull'arco temporale di riferimento. Dopo i mercati ci ritorneremo, ci siamo ritornati, ci ritorneremo appunto dopo le 12. Vi faccio questa domanda perché vi darà il diritto naturalmente ad un altro tipo di bonus che riconosciamo questa mattina. Allora, i bambini nati da quale giorno in poi sono destinatari del bonus bebè? Vi chiedo solo questa data semplicissima, mese e giorno, e ai primi tre che ci daranno la risposta corretta andrà una coppia di biglietti per il concerto del nostro Enrico Ruggeri, che si terrà questo sabato 16 maggio al Teatro del Casinò di Campione d'Italia per il tour Pezzi di Vita. Per cui 800 24 00 24, il biglietto lo avranno solo coloro che telefoneranno, e soprattutto, ma la raccomandazione, vi invitiamo a partecipare se e solo siete interessati ad andare 6 maggio a Campione d'Italia, quindi se vi trovate in quella zona, se pensate di andarvici, se volete avvicinarvi, esatto, insomma. Cioè, godetevelo insomma questo biglietto, non rispondete solo al domandone per poi non poter ricevere il biglietto. Allora andiamo subito però al tema di oggi. Dottor Sabatini, vengo subito a lei. È possibile da ieri per le famiglie interessate fare domanda all'INPS, inoltrarla quantomeno? Allora, abbiamo la possibilità di avere già un primissimo bilancio dalla partenza, come dire, dallo scoccare dell'ora X? Quante domande vi sono già pervenute? Sì, dottoressa, il flusso è consistente. Alle 11 di questa mattina abbiamo 3.846 domande, che è un flusso piuttosto consistente anche come rapidità con cui sta crescendo. Per cui, diciamo, a un giorno e mezzo dall'apertura stiamo raggiungendo quasi le 4.000 domande di accesso, che sono pervenute, diciamo, pervengono sia attraverso la procedura online nostra che attraverso i patronati o con il contact center. Certo. Quindi sono utilizzati tutti i canali in questo momento. Sono utilizzati tutti i canali, però la domanda si può fare solamente online, giusto, dottor Sabatini? Sì, solo online, quindi chiaramente dal sito, dall'home page dell'istituto. Il sito è appunto accedi ai servizi e poi il link domande di prestazioni a sostegno del reddito, e infine c'è l'ultimo link da cliccare, l'assegno di natalità bonus bebè. Serve il PIN dispositivo per operare su questa domanda. Certo. Altrimenti sempre in via telematica con i patronati o con il contact center al numero verde 803 164, se da telefono fisso, o 06 164 164, da cellulare. Certo. Diciamo, metteremo tutti questi contatti anche sul nostro profilo Facebook per chi li avesse, grazie, persi, però insomma collegandosi sul sito dell'INPS la procedura la si può rintracciare abbastanza rapidamente. Dottor Sabatini, ammettendo che qualche mamma o qualche papà si stia cimentando questa mattina nella compilazione della domanda online, intanto se scopre di non avere il PIN dispositivo deve chiederlo, ma non deve spaventarsi, perché la domanda si può fare entro 90 giorni dalla nascita del bambino, o comunque poi spiegheremo anche la deroga per chi è già nato all'inizio di gennaio, ovviamente a gennaio, e i 90 giorni teoricamente sono già passati, però insomma ci sono 90 giorni di tempo, per cui avete anche il tempo, se non lo avete, di farvi il PIN dispositivo. Ma se va tutto secondo come deve andare, sapremo subito se la domanda è accettata o meno. Guardi, l'istruttoria chiaramente ha i suoi tempi di, diciamo, per completarsi, però sicuramente il cittadino potrà accedere sia attraverso lo stesso portale per sapere l'esito e comunque verrà comunicato nel caso in cui la domanda abbia potuto fornire PEC o email, quindi contatti telefonici. Potrà essere contattato con i nostri sistemi e quindi ci sarà un rapido aggiornamento sulla situazione. Andiamo a sentire il giornale radio, poi vado anche a Matteo Prioschi, tra poco. Cuore e denari. Renzi ha fatto questo bonus straordinario degli 80 euro per tutti i bambini che nascevano dal 1 gennaio. Ma voi immaginatevi, non quelli che nascevano il 1 gennaio, e mi immagino le mamme che dovevano partorire il 31 di dicembre, che ci mancavano poche ore per avere il bonus. Scene di panico, mamma che si trattenevano. E beh, effettivamente stamattina sono proprio queste mamme e questi papà un po' arrabbiati perché non possono avere il bonus perché magari il bebè è nato in dicembre. E d'altronde i requisiti per qualunque cosa hanno determinati criteri, certi provvedimenti si legano a certe date, non possiamo fare diversamente. I requisiti che permettono di accedere agli 80 euro del bonus bebè li abbiamo ricordati nella prima parte del programma e sono anche l'oggetto del nostro domandone per chi volesse andare a vedere Enrico Ruggeri a Campione d'Italia. Adesso naturalmente sentiamo anche gli ascoltatori che si candidano a darci la risposta. Noi intanto continuiamo ad affrontare il tema di questa mattina con Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, che in verità ancora non abbiamo sentito, e Luca Sabatini, direttore centrale della Direzione Prestazioni a Sostegno del Reddito, INPS, e le vostre domande che ci arrivano all'800240024. Allora, Matteo, non ti ho ancora ascoltato prima, praticamente le mamme e i papà, che lo sono diventati da poco, avranno la possibilità di avere complessivamente questi 960 euro l'anno che raddoppiano per i redditi più bassi, giusto, no? Se le domande dovessero superare la copertura finanziaria, perché il provvedimento una copertura la prevede? Sì, il provvedimento è una copertura di circa 3,6 miliardi in 6 anni, perché appunto dura 3 anni, quindi anche chi inizierà a fruirne nel 2017 per 3 anni a disposizione. C'è questa clausola per cui se in base alle previsioni fatte, al budget a disposizione, si vede che le domande di trimestre in trimestre superano il 10% della quota prevista, allora il governo può intervenire e rideterminare l'importo o i requisiti di accesso reddituali, senza andare a intaccare però quelli che sono già stati erogati, diciamo che i genitori che hanno già visto e riconosciuto questo bonus continueranno ad averlo così com'è, e invece per gli altri potrà essere rideterminato. Diciamo che chi prima arriva meglio alloggia. Sì. Però diciamo che è stata fatta anche una copertura individuando la possibile platea potenziale. Sì, e poi su questo forse più che, diciamo, il budget complessivo, forse sarà determinante il nuovo ISEE, perché appunto l'accesso al bonus è legato, in ogni caso non si deve avere un ISEE superiore a 25.000 euro, no? Per avere 960 euro, poi se si hanno meno di 7.000 euro di ISEE raddoppia e quindi ne hai 1.800 euro rotti. Cioè il fatto è che l'ISEE fino all'anno scorso era un po' un indicatore colabrodo perché era tutto, quasi tutto dichiarato, e quindi diciamo c'era molta illegalità in questo ambito. Da quest'anno è entrato in vigore il nuovo ISEE, che è molto più severo e dovrebbe essere più, diciamo, rispettoso della realtà effettiva, certo, delle famiglie. Però sarà quindi proprio il monitor più importante da parte anche di chi certifica i requisiti economici, perché la domanda per chi la fa adesso non dovrà essere ripresentata ogni anno, però dovrà essere ripresentato ogni anno l'ISEE. Esatto. E quindi diciamo il discrimine, cioè diciamo quello che farà probabilmente selezione maggiore sarà l'ISEE. più che il budget complessivo a disposizione, certo, per la misura. Allora, 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande sul bonus bebè. Da ieri è possibile inoltrare la domanda telematica all'INPS. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. C'è anche chi ci chiede: ma ci sono agevolazioni fiscali per le famiglie numerose? Ci sono in molte regioni, lo dico ad Alessandro da Modena che ci ha chiamato, ma magari non lo mettiamo in linea perché oggi siamo fuori tema. C'è però anche un'associazione che si occupa di famiglie numerose, quindi vada a vedere sul loro sito. C'è la possibilità anche di iscriversi al sito, si ottiene una tessera che si può presentare ai supermercati per avere degli sconti, per cui Alessandro, e magari se si rivolge anche al suo comune, sono certo che su Modena qualcosa di interessante ci vengono sarà. Vengono considerate famiglie numerose dai 4 figli in su, in qualche comune anche da tre. Allora, il bonus bebè legato al reddito, ci chiede un ascoltatore al 349 238 6666. Abbiamo detto che è legato a l'ISEE. Se il bebè nasce in Italia ma il padre lavora all'estero e gli spetta, mi pare che non ci sia nessun tipo di discriminante da questo punto di vista. Sentiamo il dottor Sabatini dell'INPS. Sì, diciamo i requisiti per quanto riguarda i genitori, a parte appunto l'evento di nascita, come avete chiarito, o di entrata in famiglia in caso di adozione, il genitore deve essere cittadino italiano, o anche cittadino dello Stato dell'Unione Europea, e per i cittadini di stati extracomunitari occorre il permesso di lungo periodo, mm-hmm, di soggiornante lungo periodo, e poi abbiamo il riconoscimento anche per quei profili di status particolari quali rifugiati politici. Mm. Certamente sull'esempio che portava è importante la residenza in Italia, diciamo il requisito è preteso di essere residente in Italia e di convivere con il figlio, oltre chiaramente, come avete accennato, tutto il discorso dei limiti reddituali testimoniati dal valore ISEE. Certo, allora volevo anche segnalare un altro aspetto questa mattina, non so, allora molti ascoltatori ci stanno richiamando e per rispondere al domandone e per intervenire in diretta sul tema di questa mattina. I nostri collaboratori Marco e Isotta richiamano gli ascoltatori per metterli in collegamento, non rispondete al telefono, per cui o c'è qualcosa che non funziona al telefono oppure vi siete distratti, per cui noi siamo a vostra disposizione, se avete delle domande naturalmente siamo pronti a raccoglierle all'800 24 00 24. Matteo, questo bonus di 80 euro al mese, 960 euro in un anno, può essere richiesto anche da quelle famiglie che già hanno i famosi 80 euro in busta paga? Sono due provvedimenti di sostegno al reddito incompatibili o compatibili? No, sono compatibili, sono due misure diverse. Per cui non c'è nessun problema, appunto per chi si intimorisse a farne una richiesta perché teme che l'altro venga a mancare, sono due provvedimenti, due strade che viaggiano naturalmente separate, però c'è la cumulabilità fiscale? No, perché comunque gli 80 euro comunque seguono una determinata strada, per l'altro punto vengono erogati anche automaticamente, in quel caso deve essere resume il lavoratore a dire che non li vuole perché pensa di sforare, mentre il bonus bebè appunto viene riconosciuto a chi ne fa richiesta, ma non va a impattare poi sul reddito complessivo. Certo. Dottor Sabatini, tornando all'attività dell'INPS in questa operazione, sarà l'INPS appunto a derogare direttamente la prestazione di sostegno al reddito, 80 euro al mese. Con che modalità farete questa erogazione? Accrediterete sul conto corrente delle famiglie interessate 80 euro al mese oppure tutto in una soluzione alla fine dell'anno 960? Come funzionerà? Il pagamento è previsto come pagamento mensile, chiaramente una volta riconosciuto il beneficio al momento del primo pagamento saranno chiaramente riconosciuti anche gli arretrati nel caso per esempio proprio di questi periodi iniziali dell'anno dove questa adozione del decreto a marzo ha fatto slittare i termini. Infatti. E quindi diciamo, i ratei saranno mensili e sono riconosciuti nell'ipotesi, diciamo, diciamo compresa tra i 7.000 euro e i 25.000 euro come valore SEE, saranno 80 euro mensili erogate per 36 mesi fino al terzo anno, certo, di vita del neonato o al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare, certo, per quanto riguarda i minori adottati. Con un accredito in conto corrente, perché se non mi ricordo male, nella modulistica da compilare voi chiedete proprio anche di esplicitare l'IBAN, no, del conto. Esatto, può scegliere chiaramente libretto postale piuttosto che conto corrente bancario o anche le carte IBANizzate, diciamo, come si dice, ma in questo caso anche il pagamento domiciliato alle poste è possibile, proprio perché sono pagamenti, diciamo, di natura inferiore ai 1.000 euro, quindi anche il cash potrebbe essere teoricamente ritirato, esatto, ecco, perfetto, esatto. Allora c'è Roby al 349-238-6666 che chiede: io lavoro in proprio, quindi lavoro autonomo, mi spetta il bonus. Anche in questo caso non esiste la discriminante fra lavoro dipendente e lavoro autonomo, la discriminante è l'ISEE, esatto, e lo ribadiamo ancora con forza, Matteo, questo aspetto. Sì, è l'ISEE, che quindi l'indicatore che tiene conto sia del reddito che della condizione patrimoniale, quindi appunto delle immobili e altri beni posseduti dalla famiglia, e poi dalla composizione appunto del nucleo familiare. In questo caso si deve fare riferimento appunto al decreto di fine 2013, uh-huh, che ha ridefinito le regole fare riferimento appunto a quella normativa che ha cambiato un po' le carte in tavola. Su questo fronte quindi la raccomandazione è: prima appunto procurarsi l'ISEE, quindi compilare la dichiarazione sostitutiva, esatto, unica, richiedere l'ISEE. Cioè se lo avete fatto a settembre dell'anno scorso, non rifatelo, perché non va più bene. Ecco. Ci vogliono una decina di giorni per averlo. Una volta avuto quello si può inoltrare la domanda per il bonus. Prima di sentire, giustamente Nicoletta mi segnalava che sono pronti i due ascoltatori e adesso andremo a sentirli. Da Roma e da Torino, volevo precisare la situazione di chi ha avuto il bambino a gennaio. Siccome la domanda deve essere fatta entro 90 giorni dalla data di nascita del bambino, ad aprile 90 giorni sono già passati. Però siccome aspettavamo le misure attuative appunto del provvedimento, dottor Sabatini, per queste persone non è che il bonus vada perso, però ecco, si riconosce la deroga, no? Assolutamente sì, il decreto ha previsto un periodo transitorio per cui per gli eventi di nascita o di entrata in famiglia per i bambini adottati compresi tra il 1 gennaio e il 27 aprile 2015, data di entrata in vigore del decreto, i 90 giorni decorrono dal 27 aprile, e quindi per questi eventi i genitori avranno possibilità fino al 27 luglio di presentare nei termini la domanda. Certo. Se mi consente il termine, volevo sottolineare l'importanza comunque dei 90 giorni, perché all'interno di questa fascia non c'è nessun problema al riconoscimento del bonus dal momento dell'evento, quindi dal momento della nascita, per cui nel caso del periodo transitorio una domanda presentata a giugno assolutamente nei termini e con un bambino nato il 15 gennaio, il primo pagamento utile avrà la famiglia tutti i ratei arretrati dal 15 gennaio, eccetera. Nel caso in cui si dovessero superare i 90 giorni, e questo anche a regime, il pagamento invece verrà erogato decorre dal mese di presentazione, certo, della domanda, quindi verrebbero persi gli eventuali mesi di ritardo dalla nascita fino, ecco, al momento di... Quindi questo è forse un elemento di attenzione che va un po' sottolineato. Esattamente, quindi siamo qua per questo, anche per sollecitare chi ha già avuto il bambino e magari rischia di perdere inutilmente queste settimane. Allora andiamo da Giovanna, ci chiama dalla provincia di Roma, esatto. Benvenuta Giovanna, ci racconti un po', per un pelo? Sì, per un pelo quasi, perché no, beh, guarda, vi racconto così subito, lui non doveva nascere il 30 me l'hanno fatto nascere il 30, perché io i miei altri due figli li ho avuti normale, spontaneo, quindi doveva nascere a gennaio, l'ultimo fatto nascere, doveva nascere il 5, allora è nato il 30 dicembre 2014 alle 11.45 di sera. Faremo il piano astrale, e quindi niente bonus Giovanna, purtroppo per lei niente, però siccome già ho sentito questo sì. E volevo chiedergli, siccome il mio reddito è inferiore a 6.000 euro, sì. E sì, io ci avrei pedito qualcosa, un altro bonus, che ne so, perché Giovanna, non sono informata. Sì. Grazie. Allora, bisognerebbe vedere intanto se Roma fa qualcosa, ogni tanto qualche comune per le famiglie numerose soprattutto delle iniziative le mette in campo. Dottor Sabatini, abbiamo però ancora il voucher babysitting. Sì, che avete ospitato più volte. Esatto. Sì, diciamo, e lì gli viene anche da ridere, perché sa che andiamo a finire lì. Dottor Sabatini. Esatto, l'abbiamo chiamato un sacco di volte. Per i voucher la misura è ancora attiva nel 2015, però ricordiamo che è una misura completamente differente, sì, rispetto a quella che stiamo svolgendo questa mattina. È una misura che nasce con un rapporto di lavoro subordinato e per compensare, diciamo, la perdita di congedo parentale, quindi favorire il rientro della mamma al lavoro e con la compensazione per 6 mesi massimo dei voucher babysitter oppure contributi per le rette mensili degli asili nido. Per cui è una misura differente, chiaramente una misura che può essere assolutamente ancora fruita nel 2015, peraltro sul 2014 abbiamo esaurito già, nonostante fosse fatto appunto in chiusura d'anno, diciamo abbiamo esaurito i 20 milioni che erano stati dedicati alla misura, quindi anche il 2015 c'è parecchia richiesta Distinta, ecco. È una misura distinta che però è una strada che potrebbe valer la pena che venga percorsa da tutti coloro che contestano il fatto che la nuova misura viene invece riconosciuta a chi ha determinati requisiti. Io non li voglio ribadire perché era l'oggetto del nostro domandone. Allora direi di sentire subito Aldo da Torino, che dici? Sì, sono d'accordo. Aldo, buongiorno. Aldo, buongiorno. Ce lo buongiorno. Dica lei. Allora, i requisiti. Chi è che ha diritto a questo bonus? Per i bambini nati da quando? 1 gennaio 2015, e mi spiace per la signora che ha parlato prima, perché forse al posto suo sarei veramente arrabbiato. Lo so, ma d'altronde tutte le cose partono a partire da una certa data. Hanno una regola, è così che deve essere. Guardi, le racconto solo una cosa veloce. Sì. Il mio vicino si è fatto 7 anni di guerra perché suo padre ha dichiarato la nascita 3 giorni dopo, perché una volta si diceva... Una volta si faceva un anche po' a caso, esatto, è vero. 3 gennaio che ci avrà sempre un anno in meno, lui per quei 3 giorni si è fatto 7 anni di guerra, ecco, confronto alla leva precedente che ne ha fatti solo 3, quindi va bene. Dice che a volte un giorno può fare la differenza. Aldo, cerchiamo così un po' di tenerci un po' più leggeri con queste preoccupazioni. Andrà al concerto? Quantomeno se godrà i biglietti. Allora, salvo imprevisti, io l'ho detto anche alla signora, mio moglie non sa ancora niente perché le farà una sorpresa. Ci metta un fiore accanto, vedrà che se la porta molto volentieri a Campione d'Italia. Grazie Aldo. Andrea D'Enzo da Torino. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Enzo da Torino. Volevo porre questa domanda: perché mio figlio, che è nato prima del 2015, non può avere questo bonus? E siccome si parla di 80 euro, vorrei fare un rilacciamento a quegli 80 euro che vengono dati nello stipendio a quelle persone che comunque rientrano in una certa fascia, perché invece chi perde il lavoro non ha più diritto, come non ha neanche più diritto agli assegni familiari dei nostri figli, che continuano a vivere le nostre famiglie e siamo, diciamo, debilitati dal fatto di non lavorare, e in più perdiamo anche sembra un po' l'Italia di un'incongruenza. È vero. Io, guardi, adesso qua stiamo andando anche un po' fuori tema, non torno a ribadire ancora una volta tutte le motivazioni per cui il bonus non lo possono avere coloro che hanno avuto i figli nati prima del 2015. Potevano esserci altri anni al centro delle decisioni del governo, potevano partire da ottobre di quest'anno il bonus per andare avanti fino al 2018, per cui qua si fanno delle scelte, ci sono delle delle capienze, per cui questo è quanto. Raccogliamo con comprensione il suo sfogo. Che cosa dobbiamo dire ancora a Matteo, che mi sta segnalando? Andiamo velocemente alle ultime raccomandazioni delle quali ci siamo dimenticati. Sì, no, più che altro diciamo un aspetto positivo, che il provvedimento prevede che il bonus è per ogni figlio nato o adottato, quindi chi farà più figli nel prossimo triennio avrà il vantaggio, esatto, di avere, infatti, più bonus. Mi raccomando, mettetevi a fare la domanda online con il PIN dispositivo e il certificato ISEE a portata di mano, fresco fresco, compilato da poco. Nicoletta? E per i bambini nati da coppie non sposate, chi fa la domanda, Matteo? Matteo? Bisogna vedere chi affida, cioè con chi è residente il bambino. Il figlio, chi è fiscalmente diamo a carico, anche sostanzialmente. No, residenza anagrafica. La residenza anagrafica. Diamo anche queste informazioni. Benissimo, metteremo su Facebook quante più informazioni possibili. Dottor Sabatini, grazie. Però sull'INPS c'è tutto, giusto? Sì. Sul sito dell'INPS. Al momento della domanda consiglierei avere la data è di presentazione. È tardissimo, non riusciamo a domani.